Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, Maridia ai microfoni di questa nuova puntata di Brussellando che si annuncia ricca di contenuti così come lo è stato la prima puntata che è andata in onda proprio martedì scorso. La settimana scorsa abbiamo avuto poco tempo di introdurre quelle che saranno le novità di Brussellando, di questa sua ottava stagione. Lo dobbiamo soprattutto a voi ascoltatori, ascoltatori casuali, ascoltatori fedelissimi, ascoltatori del podcasting, perché proprio grazie alla vostra fedeltà e grazie alla vostra tenacia che noi siamo ancora qui a suggerirvi non solo eventi culturali italiani, ma anche suggerimenti di lettura e quant'altro per poter allietare le vostre serate e i vostri weekend. Quindi saluto tutti coloro i quali ci ascoltano in questo momento, coloro i quali stanno rientrando a casa dopo una lunga giornata di lavoro. L'orario, tra l'altro, tra le 20 e le 21 ho scoperto essere davvero l'orario di riferimento di tanti colleghi che si trovano adesso in automobile, che quindi ascoltano le nostre parole, ascoltano Brussellando, Radio Alma, e quindi un saluto in particolare va anche a coloro i quali si trovano nel traffico, in questo strano traffico bruxellese, perché basta magari sforare di qualche secondo per trovarsi in una coda infinita che non termina mai. Comunque il suggerimento è sempre quello di muoversi magari a piedi, date le distanze di questa città, oppure in bici, perché è una città effettivamente gradevole, soprattutto quando non piove, da percorrere e da ammirare anche in questo caso. Il viaggio di Brussellando continua, prosegue, questo è un autunno molto speciale, l'autunno che abbiamo appena cominciato e che continueremo a vivere nei prossimi mesi, almeno fino a Natale, perché il paese protagonista della nostra agenda culturale è sempre stata l'Italia, è sempre stato l'Italia l'ospite di riferimento, ma quest'anno lo è in maniera particolare perché, come sapete, l'Italia assicura la presidenza di turno dell'Unione Europea e quindi ci sarà proprio un occhio speciale sull'Italia, ci sarà un focus sull'Italia, saranno tanti partner che hanno accettato quelle che sono le iniziative proposte dall'Ambasciata Italiana, dall'Istituto Italiano di Cultura, dalla Monte dei Paschi di Siena, che nonché dalla Piola Libri, che sono anche i nostri partner privilegiati quando parliamo di cultura. Come avrete potuto ascoltare, la settimana scorsa è stata con noi in radio Maria Laura Franciosi, la quale ci aveva raccontato di un evento che ha avuto luogo proprio giovedì scorso, quindi giovedì 2 ottobre alle ore 20, presso il Consiglio Consultativo degli Affari Europei di Etterbeck, e protagonisti di quella serata sono state due delle personalità italiane che si stanno occupando in particolare della nostra presidenza, o comunque di divulgare gli eventi chiave della nostra presidenza, e cioè Giovanni Donato, primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia, e Fabrizio Colacici, il quale invece è consigliere soprattutto per quello che riguarda gli eventi culturali. Ho avuto la possibilità di poter intervistare entrambi i consiglieri, i quali saluto nuovamente e ringrazio per la squisita intervista e anche per aver assunto, se vogliamo, la responsabilità di questa nostra presidenza, che vive uno dei suoi momenti più importanti, già che, come sapete, sono tanti i nodi al pettine, i nodi da sciogliere, e il consigliere Colacici lo dirà bene nella sua intervista, lo ha spiegato molto bene giovedì scorso ad un pubblico accorso numeroso proprio nelle sale comunali del comune di Etterbeck, che per l'appunto sono tante le sfide di questo 2014, di questo 2014 in chiusura, una nuova commissione che si sta rinnovando, un nuovo Parlamento che si è insediato qualche mese fa, nuove personalità che caratterizzeranno i prossimi 5 anni di futuro dell'Unione e non solo, già che da Bruxelles, come sapete, abbiamo un'antenna abbastanza privilegiata e particolare su quelli che sono gli eventi chiave che accadono in questa città. Come sapete, da 8 anni ormai, questo è l'ottavo, quindi da 7 anni, Brussellando ha deciso di occuparsi prevalentemente di cultura, ha affrontato anche in chiave culturale tematiche abbastanza spinose. Abbiamo parlato, per esempio, qualche mese fa proprio del ruolo dell'euro in questo momento così importante per l'Unione Europea. Il ruolo di Brussellando non cambierà. Abbiamo parlato di emigrazione la settimana scorsa, nuovamente in chiave culturale. Questo sarà uno degli episodi, degli eventi di cui vi parlerò anche questa sera, nella tempesta che va in onda o comunque in scena tra qualche minuto, mentre io parlo va per l'appunto in scena la premiere, e quindi avrò il piacere di potervene parlare la settimana scorsa, perché domani sera parteciperò, quindi sarò tra il pubblico ad ammirare questa pièce teatrale in italiano, quindi la nostra lingua che ritorna protagonista, questo tricolore che ci vedrà effettivamente attori principali sulla scena culturale brussellese, sui migliori palchi di quella che è l'offerta vasta, ricca, interessante, variegata di questo paese che ci ospita, per l'appunto il Belgio da un lato e Bruxelles dall'altro. Non mi dilungo oltre, quindi io vi farei ascoltare quelli che sono stati gli interventi dei nostri consiglieri, quindi di Giovanni Donato e Fabrizio Colacieci. Poi ritorniamo dopo un breve momento musicale a parlare di quelli che sono gli eventi in programma, di quella che è la ricca programmazione culturale e non solo di questa presidenza di turno dell'Italia nell'Unione Europea. Cari amiche e cari amici, come annunciato martedì scorso, sono all'Assemblea del Consiglio Consultivo degli Affari Esteri di Bruxelles e sono molto contenta perché sono in compagnia di due delle personalità che stanno realizzando quelli che sono gli obiettivi della presidenza italiana dell'Unione Europea. In particolare sono con il primo consigliere Fabrizio Colacieci e il primo segretario degli affari economici Giovanni Donato, il quale invece lavora presso l'Ambasciata d'Italia. Allora, avevamo accennato già qualcosa la settimana scorsa di quelli che sono gli obiettivi della presidenza italiana di questi 6 mesi, però insomma, diciamo brevemente quali sono i punti chiave, prima da un punto di vista più politico, perché comunque siamo a Bruxelles, capitale dell'Unione Europea, sede delle istituzioni principali in Europa e non, e poi passiamo invece agli elementi più squisitamente culturali che sono poi più affini anche al contenuto della nostra trasmissione. Magari comincerei col consigliere Colacieci e proseguirei poi con Giovanni Donato. Sì, abbiamo avuto una bella serata dove abbiamo parlato di presidenza italiana in modo disteso, non burocratico, e abbiamo messo l'accento su tre cose che sono crescita e impiego, quindi occupazione, spazio di libertà e di sicurezza e un ruolo più forte per l'Europa fuori d'Europa. Queste sono le tre priorità della presidenza in un periodo che, come sappiamo tutti, è di crisi, è critico per gli stati che devono fare i conti con le proprie risorse, ma anche per i cittadini che devono fare invece i conti con il proprio lavoro e con il lunario e sbarcare il lunario alla fine del mese. Però è critico anche perché siamo in un periodo per l'Europa di transizione, l'abbiamo detto molto stasera, un nuovo Parlamento, una nuova Commissione che mi sembra smagliante guardando le prime indicazioni che arrivano e naturalmente anche ancora non completata, ma che ci aspettiamo che sia completata molto presto. Quindi all'Italia è toccato anche un compito di collante fra queste istituzioni, cercando di dare impulso a una transizione che fosse efficace nel rispetto dei tempi e portasse a dei risultati buoni per tutta l'Europa. Queste sono state le cose che ci hanno impegnato negli ultimi mesi e per quello che lei diceva, che Giovanni le potrà dire di più su quello che è il lato anche, diciamo, economico su cui la Presidenza ha versato moltissimo impegno. E su quello culturale a Bruxelles abbiamo fatto una serie di eventi che naturalmente fanno parte di un programma che la Presidenza ha voluto sviluppare intorno ai temi della cultura, della creatività e dell'innovazione. Sono seminari, ma sono anche delle bellissime mostre. Ce n'è una al Bosar in questi giorni che è dedicata ai maestri senesi, a cui è affiancata una mostra sul giallo della socialità, sull'arte contemporanea, che sono quasi un unicum, perché ci raccontano un momento di trasformazione, di evoluzione della cultura italiana e quasi un antefatto, un modo di essere pioniere rispetto poi ad evoluzioni che sono state raccolte in Europa e poi ancora una volta rimbalzate in Italia. Una bella storia europea questa delle due, che le due mostre raccontano. Vorrei anche dire che continueremo con dei programmi musicali, con del teatro. A dicembre vi sarà uno spettacolo bellissimo che si chiama Rumore di Acque. Pensi, il rumore di acque, siamo alla radio, quindi immaginare che l'acqua possa far rumore, in realtà lo fa il rumore molto forte, che è l'acqua che in questi giorni ci sta riflettendo l'immagine di tante morti, tante persone che perdono la vita per cercare di arrivare ad una speranza in Europa. E questa è una cosa che anche toccheremo con l'arte, con il teatro, per denunciare con forza quello che succede, ma anche per riflettere su come porvi rimedio. Invece torniamo all'attività economica che l'Italia sta promuovendo qui a Bruxelles. Lo accennava prima, non ci sono solo seminari, ci sono anche iniziative. Possiamo ricordarle anche per i nostri ascoltatori di Bruxellando e Radio Alma? Beh sì, noi abbiamo puntato molto, come diceva Fabrizio prima, sul tema dell'innovazione. Quindi far conoscere l'Italia a Bruxelles per i suoi settori di punta, i settori di alta tecnologia. Abbiamo giocato un po' con le parole, si conosce molto il Made in Italy e lo si associa ai settori tradizionali della moda, dell'agroalimentare e dei mobili, dell'arredo, e abbiamo inventato questo brand che si chiama Tech Italy, che un po' suona come un richiamo all'alta tecnologia italiana, all'innovazione tecnologica. Siamo partiti al Parlamento Europeo venerdì 25 con l'opening session e con una sessione tutta dedicata a Horizon 2020, questo grande programma quadro della Commissione Europea, e lì abbiamo voluto mettere un po' in evidenza quelle che sono le eccellenze italiane in alcuni settori di Horizon. E avremo poi un grosso evento a novembre, due grossi eventi a novembre, uno sull'innovazione tecnologica italiana nel settore del food, guardando a Expo Milano, e un altro nell'Heritage, per chiudere poi a dicembre con una sessione dedicata all'innovazione nelle infrastrutture, le infrastrutture innovative per la crescita di cui si parla tanto. In questo abbiamo voluto un po' dare omaggio alla presidenza di turno e quindi dare spazio non solo alle aziende italiane ma anche agli stakeholder degli altri paesi membri, quindi insieme agli speaker italiani ci saranno appunto speaker di altri paesi membri e rappresentanti anche di associazioni industriali europee. Torniamo invece alla cultura, ci sono eventi, manifestazioni, spettacoli teatrali, ma ci sono anche simboli, mi sembra di aver capito. Sì, certo. Quindi possiamo parlarne dettaglio? Pistoletto è stato un grande protagonista di questo semestre, è probabilmente uno dei più grandi artisti contemporanei in Europa, sicuramente uno dei più innovativi, ed è anche uno che guarda l'Europa con attenzione, ha una visione europea. È uno che è stato invitato dal presidente Barroso, fra pochi altri intellettuali, a far parte del gruppo che ha ispirato il manifesto della New Narrative for Europe, che è una narrazione nuova, che parla dell'Europa come stato mentale, che parla dei cittadini europei come un unicum nell'atteggiamento che hanno verso uno spazio di libertà e di cultura comune. E questo segno che abbiamo voluto mettere all'interno del palazzo, che è sede del Consiglio, lo Justus Lipsius, che è il terzo paradiso, una specie di otto, una specie di infinito, vuole richiamare l'idea che c'è possibilità di riconciliare la parte tecnologica con quella naturale, l'uomo com'è e l'uomo come si vede, per arrivare a una visione unita, unitaria, armoniosa. Naturalmente è un messaggio che viene da un artista, che può essere raccolto da chiunque guarda un'opera d'arte in modo diverso, ma parlavamo prima di Mediterraneo, sempre Pistoletto ha fatto una cosa bellissima che questa volta non riflette la morte ma invece la vita, ed è uno specchio gigantesco che si trova adesso a Bosar ed è visitabile gratuitamente, con molte sedie intorno che rappresenta lo specchio delle differenze del Mediterraneo. Ci è piaciuto metterlo in quel contesto, in quel posto, perché forse quello specchio può anche simbolizzare la cultura dell'Europa, che ci riflette nelle nostre differenze, ci lascia come siamo, ma ci dà anche un filo conduttore comune. Quindi questo è un segnale anche molto forte che da parte italiana si è voluto associare al semestre per dire che la cultura rimane un elemento portentoso di identità per noi europei. Siamo a Bruxelles, Bruxellando è in onda ormai da 7 anni e questa è la seconda puntata dell'ottava edizione, quindi abbiamo intervistato tante personalità del mondo italiano e non. C'è un messaggio che vi sentite di dedicare, uno al mondo economico e l'altro al mondo culturale, nella vostra veste di rappresentanti da un lato dell'economia e dall'altro della cultura italiana qui a Bruxelles? Ma difficile dare dei suggerimenti, perché dalle imprese noi dobbiamo soltanto imparare. Noi quando parliamo di, appunto, di parte pubblica, io mi piace molto lavorare con le imprese perché imparo tanto dagli imprenditori. Da loro ho imparato proprio la voglia di non arrendersi, e credo che questo è un po' il messaggio che può uscire da questa presidenza, quello di, come dicevamo stasera, del nuovo inizio. E quindi, come in un certo senso ripartono le istituzioni europee, anche per l'Italia deve essere un momento di rilancio, di fiducia in se stessi, di fiducia nelle nostre capacità di essere un motore dell'Europa. Noi siamo un motore dell'Europa, siamo una grande potenza culturale, siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania, siamo in cima a tutte le classifiche in moltissimi settori di particolare importanza a livello mondiale, quindi non dobbiamo avere paura di trascinare con dietro di noi l'Europa. Ecco, dobbiamo avere la fiducia di acquisire una leadership in Europa. Speriamo, insomma, di riuscirci, le carte, insomma, ce le abbiamo. Lato cultura invece? Ma lato cultura, sicuramente l'Italia continua a essere una fonte di ispirazione straordinaria. Abbiamo anche visto molti giovani artisti italiani che lavorano nelle capitali europee, a Londra, a Bruxelles, continuano a dare stimoli alle aree nelle quali vivono, alle culture nelle quali vivono. L'Italia è un paese che continua a produrre straordinari talenti. C'è una cosa che va detta: il mondo della cultura e dell'arte ha poco bisogno di consigli, se non altro quello di dire di mantenere sempre libera e forte la sua voce, farla ascoltare, perché da quella voce si trae un arricchimento continuo e una motivazione per continuare su questo grosso cantiere che è l'Europa. Consiglieri, vi ringrazio, soprattutto perché l'ora è tarda, però veramente vi ringrazio della vostra disponibilità e soprattutto buon lavoro. Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori di Bruxellando e di Radio Alma. Auguri, buon lavoro anche a voi, e noi continueremo. Ci risentiremo sicuramente da qui a dicembre, ci sono tante cose che bollono in pentola. Ed ora un suggerimento musicale dalla regia. Cari amiche, cari amici, bentornate, bentornati su questa puntata di Bruxellando veramente spumeggiante, dedicata per l'appunto all'Italia, agli eventi italiani che ci vedranno protagonisti in questi mesi, per lo più per i prossimi 3 mesi, e ad alcuni di questi andranno anche al di là, perché termineranno proprio nel gennaio del 2015. Non vi nascondo che quando penso che un anno è già volato via, che siamo già al 2015, mi vengono un po' quasi i brividi. Comincerei quindi a ricordarvi qualche evento che è già in corso, già da qualche settimana a Bruxelles. Partirei con un'esposizione che io ho potuto ammirare proprio qualche settimana fa, dal titolo Painting from Siena, Ars Narrandi in Europe's Gothic Age. Quindi è una mostra dedicata a Siena. Siena, come sapete, è stata storicamente rivale di Firenze, eppure c'è stato un momento molto particolare, cioè quel periodo che va tra il XIII e il XV secolo, in cui Siena svolge un ruolo, oserei dire, abbastanza di rilievo anche rispetto a Firenze. La mostra mi ha colpito particolarmente, per varie ragioni. Innanzitutto ritroverete la ricchezza dei colori che sono tipici della nostra cultura italiana. Vedrete che la mostra ha veramente un'arte narrante, nel senso che c'è un fil rouge che accomuna le tele che sono esposte proprio al Beaux-Arts. Sono rimasta particolarmente colpita dai volti che si ritrovano effettivamente raccolti in stanze veramente decorate finemente, quindi risaltano l'oro, il rosso porpora, il blu, il giallo, come ricordava anche il consigliere con la Ceci prima, il giallo è uno dei colori che continuerà a caratterizzare anche la nostra presidenza di turno dell'Unione Europea. Quindi è veramente, si ritorna veramente a colori di cui probabilmente abbiamo un po' perso l'abitudine, colori probabilmente inediti, interpretazioni anche, se pensate che siamo in una fase storica in cui non è stata nemmeno ancora inventata, se volete, la prospettiva, perché avverrà poco più tardi. Sono delle tele straordinarie, vi consiglio veramente di andarlo a vedere, perché riscopriamo una parte della nostra cultura, una parte interessante, riscopriremo quelle radici cristiane che da un lato vogliamo dimenticare, perché chiaramente c'è bisogno di laicità forte, e su questo Brusellando non ha avuto mai dubbi. Dall'altra pensavo veramente a che cosa fosse, o a che cosa sarebbe stata mai la cultura italiana se non ci fosse stato il genio non solo degli artisti, che avevano la possibilità quindi di poter dipingere il loro tele, ma anche di questi mecenate che li accoglievano nelle proprie corti. Ovviamente non mi riferisco solo a Siena, a Firenze, all'arte toscana in particolare, ma all'arte italiana, perché ovunque si va in Italia, questo è anche un invito a tutti coloro i quali non sono italiani, che per il momento non hanno avuto ancora la possibilità di recarsi a Roma, Firenze, Siena, Venezia, Torino, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, città ricchissime di storia, perché parte di questa storia è anche dovuta a queste radici cristiane che ci appartengono, e che è giusto anche ricordare, e ognuno poi ne darà la propria interpretazione storica, culturale, sociologica. Questo poi è un aspetto che non riguarda nemmeno Brusellando, riguarda quella che è l'interpretazione della storia che appartiene a ciascuno di noi. Quindi saluto anche i colleghi del Beaux-Arts, con i quali è nata una ottima collaborazione. Saluto anche la Pinacoteca Nazionale di Siena, che ha collaborato con le tele che si possono ritrovare esposte, e quindi vi invito calorosamente davvero a visitare la mostra al Palazzo delle Belle Arti di Bruxelles. Per quanti volessero saperne di più, ovviamente c'è un sito internet www.beauxarts.be, e per quanti volessero avere anche delle informazioni telefonicamente, così come pare, il telefono pare essere ancora un mezzo molto usato, quindi non vi sorprendete se ricordo anche il numero di telefono, che è lo 02 507 8200. Quindi al Beaux-Arts c'è questa mostra dedicata all'arte senese del XIII-XV secolo, e in contemporanea, perché le due mostre possono un po' considerarsi anche figlie di uno stesso pensiero, c'è cioè un'altra mostra molto interessante, The Yellow Side of Society, Italian Artists in Europe, quindi il lato giallo della socialità, artisti italiani in Europa. La mostra, avete capito bene, è esposta al Palazzo delle Belle Arti di Bruxelles, è nata in cooperazione con la Dana Foundation for Contemporary Art, e vi ritroverete opere di artisti contemporanei che incarnano nel resto d'Europa questo vivere insieme tipicamente italiano, e riflettono ciascuno al proprio modo, ciascuno rispetto a quella che è la propria sensibilità artistica, culturale e personale, di quella che è la loro concezione rispetto al bel paese. Una presenza spirituale e solare, ma anche misteriosa, oserei dire, perché non tutti gli oggetti sono di facile interpretazione, nonché ovviamente questo trait d'union fantastico, per l'appunto, che è il colore giallo che dà anche il nome all'esposizione. Il giallo, tra l'altro, come diceva per l'appunto il consigliere Coracici, rappresenta anche la nostra solarità, la solarità che viene sempre riconosciuta a noi italiani, e anche l'utilizzo che noi facciamo dei colori, non solo a livello artistico ma anche a livello personale. Questo lo noto anche tra i colleghi, tra gli amici, che tentiamo o comunque usiamo un po' di più i colori, andando al di là di quelli classici nero, blu, grigio, ma veramente il rosso, il giallo, il rosa, il verde, sono colori nei quali ci riconosciamo facilmente. Saluto anche il commissario della mostra, che è Nicola Setari, e quindi ricordo che è un'esposizione che nasce come coproduzione della Dana Foundation for Contemporary Art, col supporto del Ministero degli Affari Esteri italiano, ovviamente, ricordo, nel quadro della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea. Quindi, come vi dicevo, sono tanti gli eventi culturali e soprattutto artistici. Ma non è finita qui, perché ho scoperto con piacere che c'è anche un'altra esposizione, che questa volta invece ha luogo presso il Consiglio, quindi il Palazzo del Consiglio dell'Unione Europea, l'Atrium Justus Lipsius, che in tanti di voi conoscerete, che invece presenta l'arte di Michelangelo Pistoletto ed il Mediterraneo. Ne parlava proprio il consigliere Colaceci, per l'appunto, su questo simbolo che potrete ammirare all'ingresso stesso del Justus Lipsius, che è multicolore, quindi ritorna ancora l'importanza dei colori nella nostra arte, e ricorda anche un po' il Mar Mediterraneo, giacché, come dicevamo per l'appunto anche martedì scorso, di questo mare che unisce e divide, perché a volte unisce e purtroppo a volte divide, per quanti hanno provato ad attraversarlo e purtroppo non ci sono riusciti. E il titolo dell'esposizione stessa, Love Difference, è essenzialmente un invito a scoprire le culture bagnate da questo mare, che è un mare millenario, e se solo potesse raccontare quello che questo mare ha vissuto, sono certa che sarebbero tante le storie che riscopriremmo e impareremmo, perché è un mare che, come dicevamo prima, è straordinario. La mostra andrà avanti fino al prossimo 31 dicembre 2014, è visitabile gratuitamente tutti i giorni tra il lunedì e il martedì dalle 8 alle 19, e se le informazioni che ci sono state fornite sono corrette, lo stesso Michelangelo Pistoletto terrà una conferenza il prossimo 30 ottobre 2014. Non posso ancora confermarvelo, però ovviamente oggi è ancora il 7 di ottobre, quindi avremo modo di potervene riparlare nelle prossime settimane. Quindi Michelangelo Pistoletto, tra l'altro, espone anche Terzo Paradiso, che è ugualmente l'Atrium Justus Lipsius ed è ugualmente una mostra di cui so poco, però vi prometto che mi informerò e che di cui vi parlerò in futuro. Per darvi ancora un'informazione che Dani M mi fa segno dalla regia e ha ragione, i biglietti. Per quanto riguarda il Beaux-Arts, Painting from Siena, il costo è di 12 euro. Per quanti invece fossero anche interessati a Rubens, c'è la possibilità di poter acquistare entrambi i biglietti a 20 euro e 18 per gli amici del Beaux-Arts. Ci sono anche delle audioguide, perché credo sia indispensabile poter seguire il percorso, soprattutto dell'Ars Narrandi a Siena, attraverso un'audioguida, che è di 3 euro, mentre invece di Yellow Side of Society e Michelangelo Pistoletto l'entrata è gratuita. Ci sono anche ci sono possibilità di organizzare visite guidate, per questo occorre parlarne o comunque scrivere al Bosar telefonando allo 070 344 577 oppure inviando un'email al groups in inglese, come all'inglese, chiocciolabosar.be. Per quanti invece ci ascoltassero al di fuori di Bruxelles, vi ricordo che questa esposizione rientra nel quadro delle giornate delle cosiddette B excursions, quindi con il treno più l'esposizione, quindi per avere maggiori informazioni potete consultare come sempre il sito delle Ferrovie Belghe, quindi brail.be. E per concludere questa ricca carrellata di arte, vi do vi annuncio già un evento, già un'esposizione, che è il mondo ottomano nell'arte rinascimentale, con quadri di Veronese, Bellini ed altri, che sarà installata proprio al Bosar tra il 27 febbraio e il 31 maggio del 2015. Quindi andiamo al di là di quella che è di quelle che sono le attività della nostra presidenza, però è un evento estremamente interessante. Quindi tra l'altro Venezia è stata per anni effettivamente culla o comunque trait d'union di una civiltà che incontrava più popoli, carrefour di differenti popoli, un po' come continua ad esserlo oggi e di sicuro come Bruxelles. Quindi The Sultan's World, The Ottoman Orient in Renaissance Art, vi consiglio vivamente di, come si dice qui a Bruxelles, save the date, e mi raccomando, andate a vederla. Dani M mi dice che ho parlato troppo, quindi meritiamo tutti una pausa e soprattutto, ecco, un altro suggerimento musicale. Cari amiche, cari amici, eccoci qui a Radio Alma, brussellando Maridì ai microfoni. Volevo apportare una modifica a quello che ho detto poc'anzi, perché riferendomi a Michelangelo Pistoletto e il Mediterraneo, questa esposizione è al Bosar, non al Justus Lipsius, così come avevo comunicato, ed è visibile gratuitamente proprio nelle sale del Bosar, la si può visitare, quindi senza dover acquistare alcun biglietto. La mostra sarà aperta fino al prossimo 18 gennaio. Invece, quello che è visibile extramuros presso l'atrium del Justus Lipsius, che è il palazzo, la sede del Consiglio dell'Unione Europea, è visitabile da lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 8 alle 19 e l'entrata è gratuita, quindi anche in questo caso potrete ammirare il simbolo di quella che è la nostra presidenza veramente direttamente dal vivo, e come sapete il Justus Lipsius è facilmente accessibile anche in metropolitana, fermata Schumann. Abbiamo tanto parlato di arte, arte che come sapete è la protagonista per eccellenza di Bruxellando, già che laddove c'è arte Maridì cerca di essere presente. L'arte, come sapete, si coniuga poi in tanti stili, perché abbiamo la musica, abbiamo il cinema, la letteratura, il teatro, la danza, l'architettura, quindi, e udite udite, per ciascuno di questi eventi l'Italia è protagonista questo autunno. Quindi più date: il prossimo 23 ottobre Game and Inga Hakornadottir Ballet, non so come dirlo, ballet, diciamolo alla pugliese, Ballet Mécanique, sì, il Ballet Mécanique, in cui praticamente incontriamo il futurismo italiano attraverso un concerto interattivo. Quindi il 23 ottobre siamo sempre al Bosar, e il 2 novembre, il 23 ottobre alle 13.30 e il 2 novembre alle 14.30 e alle 18.00. 18:30. Il 24 ottobre, quindi il giorno dopo, il coro della Camera di Namur, diretto da Leonardo García Larzón, con Bonaventura Rubino, Requiem en Motetten Ormote, scusate per la pronuncia. Il 6 novembre, invece, quindi è di giovedì, Montagna Nera e Grand Lavois, quindi si tratta di una musica che nasce da un club che è esistito per tanto tempo e che finalmente è stato diciamo risuscitato, così come recita per l'appunto il pamphlet del Beaux-Arts, di un club italo-belga organizzato per gli amanti del blues delle mine del Limburgo. Quindi sembra essere un evento estremamente interessante. Tra l'altro, il 6 novembre, un giovedì alle 20, se non avete impegno, save the date. Ancora, non vi preoccupate se con voi non avete una penna, perché chiaramente se siete in strada verso casa oppure siete comodamente seduti a tavola o sui vostri divani, tutte queste informazioni si ritroveranno sul sito di Radio Alma e di Brussellando, che è radioalma.eu/brussellando. Il 13 novembre, invece, per concludere quella che è la parentesi musicale, Cecilia Bartoli sarà per l'appunto in concerto, ma il programma è da determinare, quindi maggiori informazioni seguiranno. Invece parliamo di cinema. L'anno scorso il cinema è stato uno dei protagonisti inattesi di Brussellando, perché abbiamo avuto la possibilità di intervistare, e ne sono felicissima, personalità di alto calibro del cinema italiano. Non è detto poi, non escludo che ce ne saranno altre di passaggio nei prossimi mesi a Bruxelles. Intanto vi ricordo la retrospettiva su Luchino Visconti, un tributo a Claudia Cardinale, la quale è stata veramente la protagonista delle attività del Cinematech e continuerà ad esserlo fino al prossimo 31 ottobre, quindi un mese ricchissimo per quanti volessero riscoprire anche vecchie pellicole. Invece, veniamo al tema preferito da Brussellando, che è almeno il tema, il Deus Ex Machina, chiamiamolo così, che è la letteratura, perché il 23 ottobre, quindi ecco perché probabilmente il concerto musicale è alle 13:30, perché alle ore 20 saranno presenti per la prima volta a Bruxelles, e non so se per la prima volta tutti e tre insieme, Niccolò Ammaniti, Silvia Avallone e Paolo Giordano è stato già a Bruxelles, ma era da solo, e questa volta invece si ritroverà in ottima compagnia. Credo che l'evento avrà luogo anche al Beaux-Arts, ma se così non fosse, avremo ancora la possibilità di poter rettificare l'informazione. Passiamo al teatro, che è ugualmente una delle voci narranti della nostra creatività, perché il genio italiano riesce veramente a tradursi in mille sfaccettature, così come abbiamo visto in questi eventi ricchi di contenuti, partendo dall'arte rinascimentale, proseguendo per quella musicale, cinematografica e letteraria. Il teatro quindi non poteva mancare. 15 e 16 ottobre alle ore 20, Fausto Paravidino con Il macello di Giobbe, ed è la prima opera, la prima creazione del teatro Valle occupato, mentre tra il 24 e il 27 febbraio, quindi siamo già ben oltre quelle che sono le scadenze naturali della nostra presidenza, Emma Dante, le sorelle Macaluso, e questo avrà luogo al Teatro Nazionale. Quindi per ritornare a quello che vi dicevo prima, Niccolò Ammaniti, Silvia Vallone e Paolo Giordano saranno presenti al Beaux-Arts, altrimenti avremmo avuto un footnote anche qui. Per quanti invece amano la danza, ci saranno tre giorni dedicati alla danza tra il 27 e il 30 novembre a cura di Virgilio Sini, Vitanova, nell'ambito della mostra dedicata a Siena. Invece, per finire, Quindi abbiamo l'architettura, perché come sapete l'architettura non può mancare veramente nel panorama di queste nostre attività. E quindi vi ricordiamo il 21 ottobre 2014 alle ore 19:30 Tobia Scarpa e Renata Codello, i quali ci parleranno della Venice Art Mile, e la conferenza sarà in italiano e in inglese, in collaborazione anche con A+ Architecture in Belgium. Quindi, come vedete, quando si parla di arte, inevitabilmente si arrivano a coinvolgere più dimensioni, perché una sola lingua, una sola nazionalità è impossibile. Quindi vedete come l'arte, prima ancora della nostra amatissima Unione Europea, aveva visto lontano, perché gli scambi artistici, culturali, hanno o comunque nascono ben prima di tante istituzioni, e questo è a testimonianza che laddove si crea, laddove c'è innovazione, laddove c'è creatività, è necessario effettivamente travalicare i confini, anche perché travalicando i confini si possono anche ammirare quelle che sono le genialità degli altri popoli. E la ricchezza dell'Unione Europea è proprio quello di poter disporre di 28 popoli che stanno imparando a conoscersi, perché anche per noi scoprire altri popoli è sicuramente un esercizio complicato, difficile, perché anche se siamo qui a Bruxelles, richiede comunque una motivazione, richiede comunque del tempo, e chiaramente Bruxelles in questo ci aiuta molto. E Bruxellando, come sapete, ha sempre cercato di presentarvi non solo gli eventi di matrice italiana, perché Bruxellando parla italiano, quindi è l'unico programma culturale di lingua italiana di Radio Alma, però siamo sempre stati ben lieti di potervi parlare anche di altro, tant'è che le interviste con la casa editrice Meo e di Gérard Adam, che saluto, sono anche avvenute in francese, per l'appunto per testimoniare anche e ringraziare il paese belgio e la città di Bruxelles, che comunque ci permettono di poterci esprimere anche in italiano. Io vedo Dani M scalpitare dall'altro lato della regia. A volte vorrei veramente poter avere la possibilità di filmare anche Bruxellando, di superare anche questa frontiera, così come è avvenuto già in tanti programmi radiofonici. Ma per il momento ci accontentiamo dello streaming, e quindi saluto anche tutti coloro i quali invece ci ascoltano da internet, magari comodamente a casa, impegnati a inviare email, a leggere gli articoli, oppure magari ad informarsi su quelli che sono stati gli hearings della giornata. E facciamo un in bocca al lupo comunque a tutti i commissari, i quali stanno veramente ritornando tra i banchi di scuola ed essere interrogati dal Parlamento europeo, che sembra veramente molto più vicino. Almeno questa è stata la mia impressione rispetto alle volte scorse, ma forse perché forse anche io crescendo vedo le cose in maniera un po' diversa. Ma comunque ho potuto notare che lo spessore delle domande che sono state indirizzate in particolare ad alcuni commissari è sicuramente notevole. Quindi questo è un ulteriore segno di come i cittadini, attraverso i loro rappresentanti, comunque continuano a fare Europa. Ed è questo il segnale più importante, che si parli di Europa, che il progetto del mercato unico, che non è soltanto un mercato, perché bisogna andare anche al di là, bisogna restare anche nell'ambito culturale, nell'ambito sociologico, nell'ambito della comunicazione, nell'ambito di quella diversità che ci unisce, così come dice per l'appunto anche il motto europeo, Uniti nella diversità, rappresenta molto bene quello che è il concetto di Europa. E mi auguro che un giorno questo progetto possa veramente essere amato da tutti. E criticare va bene, purché però siano critiche costruttive che possano permetterci realmente di progredire, perché sono tanti i progressi di cui non ci rendiamo conto. Tra l'altro il 1914 è anche una data storicamente importante, perché se guardiamo a quello che accadeva 100 anni fa sulle sponde del Mediterraneo, oppure in questo paese che si dichiarava neutrale, poi tutto quello che accadde dopo lo facciamo raccontare alla storia, allora ci rendiamo conto di cosa vuol dire coltivare ancora questo progetto. Quindi, come sapete, Brusselando è sempre stato fautore di integrazione, fautore di scambio, fautore di dialogo, perché queste sono parole importanti: dialogo, comprensione reciproca, multilinguismo, già che siamo in Belgio, ma possiamo esprimerci anche in italiano, così come continuiamo, lo facciamo quando è necessario in francese, in inglese. Abbiamo avuto la possibilità di poter condurre interviste, almeno nelle lingue che siamo in grado di parlare. Piano piano, vi prometto, farò anche un'intervista in spagnolo, perché insomma mi sto cimentando anche con questa nuova lingua, che in realtà è nuova per alcuni aspetti, ma sotto altri ricorda tanto la mia prima lingua, che è ovviamente il mio dialetto di origine. Comunque l'Europa è anche questo, e questo non possiamo negarlo. Ci sono tante le cose che vanno migliorate, lo abbiamo detto, ma ce ne sono anche tante che funzionano bene, che ci permettono di poter vivere, lavorare, studiare in questo grande spazio europeo che va veramente dal Portogallo fino alla Polonia, fino a queste belle repubbliche baltiche che prima o poi visiterò tutte, perché ancora non l'ho fatto, ma insomma prometto che andrò anche da quelle parti. E questo perché, come sapete, Brusselando parla anche del viaggio. Brusselando è soprattutto questo viaggio costante, questo viaggio bello tra i sogni degli scrittori, perché gli scrittori ci aiutano veramente a volte a dimenticare di quella che è la nostra quotidianità. E abbiamo la pena del diplomatico, come sapete, che ci riporta poi coi piedi per terra, che ci fa capire poi tante cose da un punto di vista più meramente politico. Dani M. Scalpita, credo che ho ancora qualche minuto per un saluto finale, ma intanto, prima di salutarci, un suggerimento musicale. Cari amiche, cari amici, eccoci qui, Radio Alma, Brusselando, Maridì ai microfoni, e ringrazio tutti, ringrazio i protagonisti di questa nostra serata, da un lato i consiglieri dell'ambasciata italiana e della rappresentanza permanente qui a Bruxelles, Giovanni Donato e Fabrizio Colacici, che hanno animato la prima parte della trasmissione. Ovviamente ringrazio tutti coloro i quali stanno permettendo che questa presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che batte bandiera tricolore, ricordiamocelo, che per questo tricolore che sventola un po' dappertutto, è il nostro orgoglio insieme alla nostra fierezza, ci accompagnerà nei prossimi mesi. Ho elencato più eventi che avverranno per l'appunto già dal prossimo 16 ottobre e fino al prossimo gennaio, uno che va anche al di là di quella che è la scadenza naturale del nostro semestre. Però saluto tutti coloro i quali so che sono impegnati in questo momento nella realizzazione di questi eventi, perché anche noi di Radio Alma, nel nostro piccolo di Brusselando, sappiamo quanto costa organizzare un evento in termini di tempo, in termini di dettagli, in termini di precisione, in termini di bellezza, perché anche questa è una delle parole chiave che ci accomuna, ed è con questa parola che vi saluto questa sera. Vi auguro una splendida settimana, auguro veramente a tutti la possibilità di poter vivere davvero pienamente gli eventi culturali che sono effettivamente nostri, di questa presidenza. E quindi saluto veramente tutti gli operatori dei differenti settori, auguro loro davvero buon lavoro, così come auguro a tutti voi che siete all'ascolto delle buone visite. Spero che alcuni di questi eventi possano arricchire il vostro bagaglio culturale e possano anche allietare le vostre giornate. Saluto per la parte tecnica Dani M in regia, e infine un'ultimissima parola: volevo ringraziare Maria Laura Franciosi, Bruno Mariani e Veronique Luar, che mi hanno dato la possibilità di poter vivere veramente una bella emozione giovedì scorso nell'ambito degli incontri organizzati dal Consiglio Consultivo degli Affari Europei di Etterbeck. un saluto a tutti, una buona settimana e a martedì prossimo, perché Bruxelles è appena ricominciato e piano piano vi assicuro, perché siamo così, siamo un motore a diesel, però poi quando cominciamo ad andare forte non ci ferma nessuno. Saluti bruxellanti e soprattutto continuate a bruxellare, maridì.